Ciao, hai mai sentito parlare della domanda fondamentale? La domanda delle domande. Oggi tratteremo proprio questo. Non ricordo esattamente quando Einstein sia entrato per la prima volta nella mia vita, ma di lui ricordo esattamente una frase: nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole. Sono sempre stato convinto che fosse solo una questione di tempo, che ciò che mi avrebbe reso felice sarebbe di colpo, boom, piombato nella mia vita. E voilà, sarei diventato happiness, very happiness. Pensare che qualcosa che era lì pronto per raggiungermi sarebbe arrivato. Io avevo un sogno, io volevo realizzarmi. La logica che mi guidava era una logica del fare, dare, dare, dare, del performare, del fissare gli obiettivi, di raggiungerli, di monitorare, di correre, correre, correre. E così ero convinto, avrei trovato la mia felicità. Avevo fissato che una volta raggiunta la laurea sarei probabilmente stato molto più felice, perché libero da impegni e da libri e da scadenze avrei potuto costruire day by day la mia vera vita, la mia felicità. La fregatura è stata che appena raggiunta la meta, l'eccitazione è durata più o meno la notte post hangout e dal giorno dopo questa sensazione di disorientamento, di vago, di che cosa faccio adesso? Ho tutto il tempo disponibile, ho tutto il mondo ai miei piedi, ho la possibilità di partire, di restare. Come mi sento dentro? Ero molto più felice una settimana prima. Ad un certo punto, la felicità che avevo ottenuto dal raggiungere una meta, un obiettivo, e che pensavo sarebbe stata con me, mi avrebbe accompagnato chissà per quanto tempo, era al mattino seguente, al risveglio, completamente svanita. Era tornata invece una sensazione di vuoto. Uè, ma la felicità dov'era? Cercai di convincermi che stavo provando qualcosa di estemporaneo, cioè stavo provando una sorta di depressione postpartum, cioè depressione post raggiungimento dell'obiettivo, che era momentanea, sarebbe svanita di lì a poco. Anche perché solitamente in un grafico di una gaussiana prima si tocca un picco di euforia e poi necessariamente abbiamo una parte in cui si va a scendere. La parte pratica che oggi voglio proporti è quella di focalizzarti sul timing. Prova a riflettere su due o tre eventi della tua vita in cui, dopo aver raggiunto un obiettivo, un traguardo, non hai assolutamente percepito la soddisfazione o la felicità che ti aspettavi. Per oggi è tutto, ci vediamo domani con un altro passaggio fondamentale per essere e diventare felici. Ciao!